24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:22 minuti, eccoci gentili ascoltatori, inizia una nuova settimana di 24 mattino con i nostri sondaggi. Oggi parliamo del pacchetto sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì. Una stretta sull'immigrazione e sulla prostituzione da strada. Vi chiediamo, secondo voi è necessaria un provvedimento del genere? È necessario? Votate su radio24.it. Ne parleremo alle 8:30 ed ora da dove iniziamo? Come di consueto dalla lettura dei quotidiani in edicola. Legal Mail, la migliore posta elettronica certificata. È un prodotto InfoCert. Vi presenta In Primo Piano. Lunedì 8 novembre è la politica a farla da padrone dopo il discorso di Fini e i toni non sono davvero concilianti dalle prime pagine dei giornali. Fini rompe, governo sull'orlo della crisi, questo per il Corriere della Sera. Fini, crisi o noi via dal governo per Repubblica. Fini, un nuovo governo per la Stampa. L'ultima raffica di Fini per il Giornale. Poi ci si sbizzarrisce dal fine corsa per il Quotidiano Nazionale, l'Unità, tempo scaduto. L'apertura del Sole 24 Ore del lunedì, mediazione anche all'impresa. Oltre ai benefici diretti si accorceranno i tempi dei giudizi in tribunale. Lunedì l'edizione del Sole 24 Ore è particolarmente dedicata alle piccole e medie imprese. Le segnalazioni da cui voglio iniziare la rassegna stampa sono: la prima, la trovate in prima pagina del Corriere della Sera, riguarda un mito della musica, anche un personaggio molto controverso, Franco Califano. Mario Luzzatto Fegiz racconta: Califano vuole l'assegno di Stato. Si tratta della richiesta della legge Bacchelli, quella che prevede un vitalizio per chi si è distinto nel mondo della cultura, nell'arte, dello spettacolo, dello sport e che ora versa in situazioni di indigenza. Chiedo la legge Bacchelli. Ora sono povero. Eccolo qui il crepuscolo del califfo a pagina 37 del Corriere. Il 15 luglio di quest'anno sono caduto dalle scale e mi sono rotto 3 vertebre. Questo incidente ha fatto venir meno la mia unica consistente fonte di reddito, ovvero le serate. Mi ha messo in ginocchio. Al che Luzzatto Fegiz chiede: scusi, ma lei non ha i diritti d'autore? Ma io non so bene come funzioni la SIAE, so soltanto che prendo circa 10.000 euro a semestre, sempre 10.000, misteriosamente non aumentano né diminuiscono mai. Non ce la faccio, vivo in affitto, non sono più autosufficiente con tutto quello che la cosa comporta. Se ne sta occupando tra l'altro il suo medico, che è anche un senatore, il senatore Domenico Gramazio, che conferma: presenterò al ministro Bondi questa proposta. E alla obiezione: scusate, ma ci sono persone che sono molto più indigenti di Franco Califano, non pensate di creare una situazione in cui qualcuno si può sentire anche offeso dalla vostra richiesta? Beh, Califano dice: no, io ormai sono con le spalle al muro, quando le cose andavano bene non ho pensato a comprare una casa, amavo cambiare spesso luogo, mi spostavo in continuazione. Ora non comprerei una casa neanche se lo potessi permettere. Per chi? Non ho figli, non ho eredi. E poi chi mi conosce sa che fu arrestato nel 70 per possesso di stupefacenti nella vicenda che coinvolse Walter Chiari. Rifinì in carcere nell'83 per porto abusivo d'armi e anche per stupefacenti. In entrambi i processi sono stato assolto. Chissà, forse lo Stato ora mi deve qualcosa. Franco Califano, dopo una vita spericolata, eccolo qui, chiedo la legge Bacchelli, ora sono povero. Una notizia che trovate solo sul Corriere della Sera. Un'altra segnalazione proviene da Repubblica. Sapete che siamo il paese dei mille campanili e delle mille città, delle migliaia di comuni e anche dei tanti aeroporti. La politica ha fatto in modo che ognuno avesse il suo bel piccolo aeroporto, anche se inutilizzato. Ora Repubblica, in un articolo di prima pagina di Ettore Livini, dice che da Bolzano a Lampedusa addio agli aeroporti bonsai. C'è allo studio un centinaio di paginette messe a punto da Nomisma, OneWorks e KPMG, allo studio del governo e sul tavolo del governo, analisi e cifre che arrivano a una conclusione drastica. In Italia ci sono 24 aeroporti di troppo. Foggia, Parma, Rimini, Forlì, Brescia, Cuneo, Perugia, Bolzano e tanti altri, strutture senza passeggeri. A Siena ne passano sì e no un migliaio all'anno. Certo, strutture che hanno bisogno di un minimo di traffico di 500.000 persone. Nel 2009, sopra questa soglia di sopravvivenza, ce n'erano solo 25 su 100. pochi passeggeri, molti debiti, aeroporti, si cambia, troppi sprechi, via gli scali bonsai. Certo, Ettore Livini poi racconta, non sarà facile chiudere questi mini aeroporti nel paese dei localismi. Sono già alle lotte in Sicilia, Stato e Regione litiga per chi dovrà aprire il portafoglio per Comiso. In Toscana è derby fratricida tra Firenze e Pisa. Certo, il dato di fatto è che ci sono degli aeroporti bonsai che pochissimi utilizzano, costano tantissimo e all'ennesimo tentativo siamo di chiuderli. Questo per Repubblica. Ora ci fermiamo, pubblicità e meteo, e poi ripartiamo dalla politica. In primo piano. La politica ovviamente è il giorno dopo il discorso di Fini, molto atteso, e a leggere tutti i giornali, dal Giornale all'Unità, giusto per comprendere tutto quello che sono in edicola, diciamo, da sinistra a destra. Ormai l'idea è che ci sia uno strappo consumato, che la crisi di governo sia alle porte, e è una questione di tempi per tutti, non del se ma del quando. Che ha detto Fini? Beh, Berlusconi si dimetta oppure usciamo dal governo, e la risposta di Berlusconi la si legge un po' nei vari retroscena. Berlusconi ufficialmente non ha commentato nulla, ma a pagina 3 del Corriere della Sera Berlusconi si prepara alle urne ma mi sfiduci in Parlamento, cioè la linea è quella, non ha voglia di commentare, chiuso ad Arcore coi suoi figli, ostenta coi suoi più interesse per la partita del Milan che per il discorso di Perugia, ma ritiene che la legislatura sia ormai prossima alla fine, morta e sepolta, così la definisce in un virgolettato attribuito a Berlusconi Marco Galluzzo. Ora però si tratta di capire come muoversi, e l'idea di Berlusconi è questa: vuole davvero staccare la spina Fini? Venga in Parlamento, quella è la strada, e mi voti contro. Anche su Repubblica Francesco Bei, il cavaliere pronto alle barricate, mi sfiduci e si torna subito al voto. Non mi dimetto certo perché me lo chiede Fini, andiamo avanti per la nostra strada. Queste sono alcune delle frasi attribuite a Berlusconi che filtrano da Arcore, dove era ieri. Se vogliono possono votarci contro, ma a quel punto lì voglio proprio vedere i finiani che fanno cadere il governo. Con anche questa frase invece di Italo Bocchino, Berlusconi non si abbarbichi dentro Palazzo Chigi come Saddam Hussein. Beh, è davvero, questo fa capire che il clima è quello davvero della resa dei conti. Tra l'altro io vado un po' in retroscena, perché quello che è stato detto pubblicamente da Fini l'avete sentito tutti in maniera molto chiara. Ha anche detto non rimarranno i 4 esponenti di Future Libertà, vale a dire un ministro e 3 sottosegretari, non rimarranno un secondo di più in questo governo Berlusconni. Fini ha detto o Berlusconi si deve dimettere, fare un nuovo governo con l'UDC, e allora possiamo rilanciare in questo modo la legislatura. E nel retroscena invece della Stampa di Fabio Martini, Gianfranco Fini ha chiamato qualche giorno fa il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per informarlo di questo passo. Quando ha deciso il da farsi, scrive Fabio Martini, Fini ha informato il Capo dello Stato. Ovviamente Napolitano ha ascoltato, non è suo costume interferire nelle decisioni politiche, anche se un Presidente della Repubblica aiuta sempre a riflettere sulle conseguenze di ogni decisione. Tra l'altro c'è già una controrisposta di Fini, questo sul Corriere della Sera, a Berlusconi, che ha detto se vuole mi sfiducio in Parlamento. E Fini, questo racconta Paola Di Caro a pagina 5 del Corriere, avrebbe detto in serata se vuole un voto contro prima o poi arriverà. Ma io, con il ritorno all'UDC in coalizione, gli offrivo una via d'uscita. Cioè questa idea di dimettersi Berlusconi, avere un nuovo governo con l'UDC e respinta da Berlusconi, è una strada che pare abbia avuto davvero una vita molto molto breve. Insomma, rimane da capire e rimane da pensare che questo non ci sarà. E che, come raccontano i vari commentatori, come Pierluigi Battista sul Corriere della Sera in prima pagina, per esempio, parla chiaramente di crisi dietro l'angolo, si tratta solo di capire quando. Ovviamente ci sono anche tante interviste a commentare il discorso di Fini. È molto duro al ministro Sacconi, intervistato da Roberto Zuccolini sul Corriere della Sera, pagina 6. Il leader futurista è un uomo del passato, vuol tornare al governo dei partiti. Col discorso di Perugia dimostra che il passato che blocca il futuro, per dirla col Marx, è il morto che afferra il vivo. Altro che futurista, dimostra di essere un passatista, dice Sacconi di Fini. Perché non ha fatto altro che riaffermare il vecchio primato dei partiti sulla società, ha prefigurato di fatto una crisi al buio, così come è accaduto tante volte nella Prima Repubblica. Fini si dimostra politicamente e culturalmente subalterno a una sinistra peraltro in declino, così Sacconi. Mentre Frattini, il ministro degli esteri intervistato da Alberto D'Argenio su Repubblica, dice: ora bisogna vedere se tutti i futuristi vogliono andare a casa, e ribadisce che il percorso è quello, il Parlamento è sovrano, ci vota contro il Parlamento. Mentre la Lega, devo dire, ha una strategia che più volte Bossi ha messo in atto in queste situazioni di grande marasma politico. La Lega fa un passo indietro. Ieri l'unica frase di Bossi è stata: sto dietro il cespuglio e aspetto. Punto. A capo. Fine. In realtà oggi si incontrano, come ogni lunedì, in via Bellerio, la sede della Lega a Milano, i maggiorenti del partito, quindi forse da oggi si capirà qualcosa. Qualcosa filtra, o meno, l'unico che parla è Luca Zaia, il governatore del Veneto. Lo fa con Rodolfo Sala in un'intervista a Repubblica, pagina 6. Dice: da Fini parole intollerabili. L'unica alternativa è il voto anticipato, l'idea che si debba andare a votare perché lui si è pentito di avere cofondato il PDL è intollerabile. Si mettono in discussione gli impegni presi con gli italiani, ma chi lo fa dovrà assumersene per intero le responsabilità. Beh, è quello che volevate, attribuire a Fini la paternità della crisi, chiede Rodolfo Sala. Lasci perdere, io sono in preda allo scoramento. Sembra una dannazione. In questo paese è impossibile che un governo duri un'intera legislatura. Evidentemente non siamo una democrazia matura. Così disse Luca Zaia. Ora, che cosa succederà di preciso nei prossimi giorni? Ovviamente tutto è ancora aperto. Secondo i giornali la crisi è inevitabile, anche perché Fini ha detto: se Berlusconi non accetta di dimettersi, noi usciremo dal governo nel giro di 2 giorni. E tra l'altro c'è un'intervista anche al Corriere della Sera di Adolfo Urso, l'unico vice ministro Adolfo Urso, che dice praticamente nel giro di 2 giorni si capirà. Ebbene, a quel punto Berlusconi, secondo la stampa ma anche secondo il giornale, potrebbe puntare al rimpasto. Ugo Magri a pagina 5 della stampa, cioè: questa potrebbe essere la strategia. Si dimettono i 4 esponenti del governo dei finiani? Eccolo qui, un rimpasto in perfetto stile Prima Repubblica. Berlusconi scommette che andrà dal capo dello Stato, il capo dello Stato dirà: d'accordo, c'è il rimpasto, ma presentati in Parlamento per verificare se ti reggi ancora sulle tue gambe. E al che, eccolo il piano messo a punto con i capigruppo Cicchitto, Gasparri e il vicario Quagliariello. Si prevede che il Red de Razione prenda il via non dalla Camera, ma dal Senato. Perché al Senato, l'ultima volta che si votò la fiducia, il margine del vantaggio berlusconiano era di 45 voti. Senza i finiani sarebbero comunque 25. Incassato dunque il sì dal Senato, con un eventuale rimpasto, Berlusconi si presenterebbe alla Camera ed ecco traballare, secondo questo piano, le certezze finiane. Perché chi mi voterebbe contro saprebbe di condannare a morte la legislatura, dunque ci penserà 2 volte e non commetterà l'errore. Come dire, puntiamo sui finiani, che poi all'ultimo momento magari non se la sentono di staccare la spina. Questo sarebbe il piano, quello di fare un rimpasto e di presentarsi alle Camere. Ma è un piano, che dice, molto fragile, racconta Ugo Magri sulla stampa. Il piano B sarebbe addirittura questo: qualcuno azzarda all'interno del governo, Silvio potrebbe fare un passo indietro, è un qualcosa che è già stato profilato nei giorni scorsi, lasciare Palazzo Chigi, lasciarlo a un nome della coalizione e far continuare lui, e il nome del nuovo pilota in quel caso potrebbe essere uno e uno solo: Tremonti. La Lega, noi ci potremmo stare, sussurra un esponente di punta del Carroccio. Dunque l'idea di un Berlusconi che faccia un passo indietro e continui la legislatura con un altro, un po' sostituzione stile calcio, qualcosa che, per la verità, nei giorni scorsi, quando si è profilata, pare che Berlusconi abbia commentato: non accetterò mai una situazione del genere. Anche il giornale però parla di una crisi da Prima Repubblica. Ecco cosa succederà con un articolo a pagina 5: la possibilità del rimpasto. Con il Future Libertà, che annuncia il ritiro del governo, una via d'uscita è possibile. Berlusconi può provvedere a un rimpasto flash come fece Andreotti nel 90. Dunque non è esclusa questa possibilità, anche se Vittorio Feltri, in prima pagina del giornale, in realtà firma l'editoriale, dice: a questo punto la questione è tutta qui. Se la maggioranza non c'è più, la soluzione logica è ricorrere alle urne. La speranza è che Napolitano si comporti correttamente, anche se il partito da cui proviene non è attrezzato per affrontare il giudizio popolare. 14 mesi fa il giornale denunciò le insofferenze di Fini nei confronti del centrodestra e della Lega, prospettò quanto è accaduto. Purtroppo non sbagliavamo. Serve votare e prepararsi nell'eventualità di un'altra vittoria del Cavaliere a non ripetere ancora una volta i soliti errori. Forse pretendiamo troppo da un paese che casca sempre nelle stesse trappole. Feltri dunque dice: la maggioranza non c'è più, si deve votare. Vedremo come andrà a finire nei prossimi giorni. Certo, uno strappo ieri si è consumato: il traffico. In primo piano. Io vi ricordo il tema del nostro sondaggio: parliamo in qualche modo di politica. La decisione da parte del Consiglio dei Ministri di approvare questo pacchetto sicurezza venerdì scorso, nel quale c'è una stretta sull'immigrazione, per esempio si vorrà anche tentare la via dell'espulsione dei cittadini comunitari dell'Unione Europea, che dunque possono passare tranquillamente le frontiere, ma se non mantengono alcuni livelli di reddito o una dimora decente o un lavoro. Come titolava sabato il giornale, ora possiamo espellere anche i Rom. Questo è poi il succo del discorso. Una stretta sull'immigrazione e anche una stretta sulla prostituzione da strada. Lo segnalo, votate su radio24.it, perché oggi ci sono due articoli a riguardo sui giornali. Il Corriere a pagina 24, frontiere aperte anche ad albanesi e bosniaci. Il linguaggio burocratico di cui si discute a Bruxelles dice che oggi e domani si parlerà del numero 3043. Questa è la riunione 3043 del Consiglio che raccoglie 27 ministri degli interni dell'Unione Europea. Togliendo dai codici e andando ad analizzare quello di cui si tratta di che cosa? La possibilità di dare in vigore da Natale anche ai viaggiatori di nazionalità bosniaca e albanese un passaporto digitale per cui potranno viaggiare in qualunque paese del trattato di Schengen senza più dover passare alla relativa ambasciata e potranno trattenersi fino a 3 mesi per un soggiorno di tipo turistico anche svolgendo un lavoro temporaneo. È quello che è già successo nel 2007 con Romania e Bulgaria, con le polemiche annesse. Il tema è ovviamente delicato. Frontiere aperte ad albanesi e bosniaci da dicembre, se passerà questa normativa dell'Unione Europea, non avranno più bisogno del visto anche albanesi e bosniaci. Un altro articolo che riguarda questo pacchetto sicurezza lo segnalo dalla Stampa. Flavia Amabile si è concentrata sulla prostituzione da strada, è andata in via Salaria, nel bordello di via Salaria. Il decreto non fa paura, dopo la stretta del governo lucciole tranquille, se ci mandano via ritorniamo. Sono 70.000, a meno così certificate, le prostitute di strada, per metà sono straniere, una su cinque minorenne, 9 milioni di italiani, questi sono i clienti, sono per la maggior parte protette dagli sfruttatori che vigilano su di loro, se arriva la polizia trattengono quasi il 90% degli introiti dalle prestazioni sessuali. Viene fatto tutto alla luce del sole, tra le famiglie che vanno all'IKEA, i clienti che puntano minorenni rumene. Questo racconta Flavia Amabile, che si è così mischiata in un giro sulla Salaria per cercare di fare anche delle fotografie, per cercare, ovviamente viene subito allontanata dagli sfruttatori, viene scambiata o per una poliziotta in borghese, viene scambiata per qualcuna che vuole insomma infastidire questo mercato del sesso a cielo aperto. Lo trovate il reportage sulla Stampa a pagina 18. Per le altre segnalazioni, beh, di cronaca io voglio segnalare, l'avete sentito, il grido di allarme del vicepresidente degli industriali Vicentini Vescovi a Radio 24. Ha detto: lo Stato ora ci aiuti, altrimenti le tasse non le pagheremo più. Questo appello viene raccolto, questa intervista della nostra Cristina Carpinelli dà spunto a molti giornali per tornare sul tema, ci fa anche molto piacere, insomma viene citata la nostra intervista sui titoli dei giornali, lo Stato ora ci aiuti, per esempio sul Giornale a pagina 11, altrimenti le tasse non le pagheremo più. Tra i naufraghi del disastro torna la paura della pioggia e tra l'altro purtroppo insomma la pioggia è annunciata da ieri, non so se stia piovendo in questo momento sul Veneto, ma chiaramente sono tutti col fiato sospeso, tutti a guardare un po' all'insù per capire se la situazione possa davvero tornare difficile, aggravarsi per meglio dire. Certo è un tema questo molto interessante, un contrasto tra quello che sta succedendo e l'aiuto se arriva o non arriva. Io voglio segnalare la prima pagina del Sole 24 Ore, come detto dedicata il lunedì nell'edizione all'attenzione alle piccole e medie imprese, mediazione anche all'impresa, in questo caso ci si concentra con un lungo articolo a pagina 5 sulla mediazione obbligatoria. Andrea Maria Candidi racconta di quello che avverrà a partire da marzo, quando per alcune tematiche che sono tutte riepilogate in un'infografica a pagina 5 ci sarà appunto il tentativo da parte delle imprese, o meglio l'obbligo per chiunque di tentare, prima di andare in una causa civile in tribunale, di passare attraverso una mediazione. Prima della lite vera e propria, in numerose materie diventa obbligatorio tentare questa strada della composizione amichevole da un mediatore. Ora si cercherà di capire come funziona, si cercherà di capire se funzionerà, perché, come racconta Andrea Maria Candidi, quasi tutti i precedenti tentativi di introdurre meccanismi per una composizione amichevole prima di andare in causa in tribunale non sono mai falliti. Però ora ci sarà per alcuni contenziosi un obbligo di passare dal mediatore, staremo a vedere. Voglio andare alla segnalazione conclusiva. Trovate molte pagine oggi sui giornali su che cosa? Sul programma di Fazio e Saviano. Vieni via con me. Fazio Saviano, prima da Trilling. Questa sera ci sarà la prima delle quattro puntate dedicate di Vieni via con me, questo programma che ha fatto molto discutere. Ci sono interviste un po' ovunque di Fabio Fazio, viene intervistato in prima pagina dal Secolo XIX, viene intervistato dalla Stampa, pagina 7, dice: Vieni via con me, la sintesi di un pensiero diffuso, una domanda retorica perché non è una risposta. C'è un monologo top secret di Roberto Benigni questa sera di mezz'ora. Mentre su Repubblica Roberto Saviano fa un lunghissimo articolo in prima pagina e intera pagina 13, così racconterò i segreti della macchina del fango. Quando si dà fastidio a chi comanda, si attiva un meccanismo fatto di dossier, giornalisti conniventi, politici faccendieri che cercano attraverso media e ricatti di delegittimare i rivali. Ecco, la macchina del fango è il tema della prima puntata, poi Saviano racconta un po' tutta la genesi di questo programma, nato come una trasmissione che voleva raccontare il paese, poi ci siamo accorti che iniziavamo a non essere graditi. Se fossimo stati in silenzio subendo le condizioni della Rai di Masi, avremmo lavorato nella consapevolezza di costruire qualcosa che non era nei patti. E questo è il nuovo meccanismo della censura: porre mille difficoltà alla realizzazione di un progetto. Racconta anche Saviano di come le prove siano state fatte con persone, per quanto blindate, le prove con persone che ficcavano il naso pronte a riportare il minimo dettaglio, ma a noi lo sappiamo e quindi durante le prove sappiamo cosa non dire, passaggi e considerazioni che solo in diretta si potranno ascoltare. Stasera vieni via con me con Fazio e Saviano. Ci fermiamo, ora il GR 24 mattino. Eccoci qua, le 8 e 22 minuti. Allora, io voglio ricordare che tra poco parleremo del nostro sondaggio di pacchetto sicurezza, la stretta su immigrazione e prostituzione. Secondo voi è necessario? Questo è quello che vi chiediamo, perché il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo pacchetto sicurezza, nel quale si prevede, per esempio, Tra le misure ipotizzate è quello di espellere i cittadini comunitari senza reddito o senza una dimora adeguata e quindi a carico del sistema sociale ospitante, e anche una stretta per quel che riguarda la prostituzione da strada. Vi chiediamo se sia necessario. Devo dire che per ora su Radio24.it state votando molto. E il 70% di voi dice, il 69% di voi dice di sì, e per il momento si sta, cioè è necessaria questa stretta. Ne parleremo ovviamente con ospiti. Io devo dire anche che attendevamo, e l'abbiamo sentito 10 minuti fa, per l'intervista di oggi, l'onorevole Carmelo Briguglio di Futuro e Libertà Fignano, che ci aveva dato il suo assenso anche 10 minuti fa di intervenire. Ma sono così i nostri politici italiani, danno il sì 10 minuti prima, dicono sì 50 volte e poi 10 minuti dopo scompaiono. Chissà, starà già alle prese per cercare di capire la crisi di governo, come affrontarla. Caro Carmelo Briguglio, caro onorevole, grazie davvero per questa buca che ci ha dato in diretta. Che dire, allora parliamo di questo tra pochissimo, la stretta su immigrazione e prostituzione. Il pacchetto sicurezza, ne parleremo tra pochissimo con ospiti. Se volete intervenire, 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. Se volete gli sms, 349 238 6666. Un po' di pubblicità e poi partiamo. 24 mattino. Eccoci qua alle 8 e 30 minuti, pronti per il nostro sondaggio nel quale parliamo del pacchetto sicurezza, la stretta su immigrazione e su prostituzione da strada che è alle viste ed è stata ipotizzata dal governo. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Nell'ultimo Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo pacchetto sicurezza, prevede tra le varie misure ipotizzate anche la possibilità, una stretta sull'immigrazione, la possibilità di espellere anche i cittadini comunitari che non rispettano una direttiva nella quale è previsto che debbano avere un reddito adeguato, una dimora adeguata, insomma devono mantenere alcune caratteristiche. E poi il rimpatrio coatto di coloro che sono trovati a esercitare attività di accattonaggio o prostituzione che non rispettino il foglio di via, cioè una stretta contro la prostituzione da strada. Era necessario, secondo voi è necessario questo pacchetto sicurezza, una stretta su immigrazione e prostituzione? Dovete votare su radio24.it. C'è da dire che per ora i voti dicono sì, abbastanza necessario per il 69% di voi. Ne parliamo con due esponenti politici. Sono il senatore Sandro Mazzatorta, che ritrovo, della Lega. Buongiorno senatore. Buongiorno. E anche sindaco di Chiari, in provincia di Brescia. Saluto anche l'onorevole eurodeputata Sonia Alfano dell'Italia dei Valori. Buongiorno onorevole Alfano. La recuperiamo adesso la linea. E saluto anche una scrittrice, giornalista, scrive una rubrica sull'Unità, ma anche ha scritto diversi libri, Igia Bascego, che saluto. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, salve. Senatore Mazzatorta, intanto chiedo a lei, era davvero così necessaria questa stretta sull'immigrazione, questa stretta sulla prostituzione da strada? Se ne sentiva così bisogno? Per quanto riguarda l'allontanamento dei comunitari era necessario, perché dopo quello che è accaduto in Francia nell'agosto del 2010 occorreva che anche l'Italia si mettesse a quel livello, cioè si creasse una serie di condizioni per poter eseguire gli allontanamenti dei comunitari che non soddisfano le condizioni della direttiva europea, che come ha ricordato lei chiede un lavoro, chiede una abitazione idonea e chiede un reddito, mezzi di sostentamento economico per poter soggiornare. Però lei sa che quello ha creato molte polemiche in Francia. Parliamoci fuori dai denti, anche il giornale ha titolato così sabato: ora possiamo espellere i Rom, perché spesso i Rom sono di cittadinanza rumena, sono cittadini comunitari che non possono essere allontanati per il trattato di Schengen, ma se si applicano queste nuove norme per cui non rispettano la direttiva, magari vengono trovati senza lavoro, senza una fissa dimora, senza un adeguato reddito, possono essere espulsi. È fatto appositamente per questo? È fatto per i comunitari, tra i quali sicuramente anche i Rom, che non rispettano quelle condizioni, quindi che non hanno un lavoro, che vivono di attività illecite sul nostro territorio e dunque costituiscono anche un pericolo per la sicurezza del nostro territorio. In Francia è stata avviata questa azione di allontanamento coatto E ultimamente il commissario europeo alla giustizia ha rinunciato all'avvio di una procedura di infrazione contro la Francia per l'espulsione dei Rom, il che dimostra che quelle misure in fondo rispettavano pienamente il trattato europeo e le direttive europee, che dicono chiaramente che questi comunitari non devono diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale del paese che li ospita. Quindi l'allontanamento, vedremo poi come l'allontanamento si può fare. Intanto l'onorevole Sonia Alfano, eccoci qua, ci ha raggiunto. Buongiorno onorevole Alfano. Sì, buongiorno. Io mi scuso ma non ho sentito la prima parte perché ero in aereo. No, infatti. Allora la situazione è questa: il senatore Mazzatorta della Lega dice è giusto, è necessario questa espulsione di persone che violano questa direttiva, che prevede di avere una dimora adeguata, un reddito adeguato. È una direttiva europea, l'ha fatto anche la Francia, quindi non ci si vede nulla di male, anzi bisognava adeguarsi anche a quello che ha fatto la Francia. Poi magari parliamo della prostituzione, ma che ne pensa intanto della questione immigrazione? Ma guardi, intanto le cose non stanno, per quello che è il mio punto di vista, non stanno assolutamente così. Io vorrei ricordare al senatore, ma a tutti gli ascoltatori, che all'ultima plenaria di Strasburgo, quindi alla fine di ottobre, in aula abbiamo avuto l'onore di ascoltare Ban Ki-moon, il segretario generale dell'ONU, ha espresso delle parole fortissime di condanna nei confronti di quei paesi che respingono gli extracomunitari in virtù di paure, in virtù di discriminazioni, e quelle parole di condanna sono state talmente forti che non è così che il commissario della giustizia, che poi ricordo insomma la commissario Reding e la Malmström, hanno ritirato assolutamente l'apertura di procedura di infrazione nei confronti della Francia. Io seguo personalmente i lavori perché sono in commissione Libe che si occupa di immigrazione, e vi assicuro che le cose non stanno assolutamente in questa maniera, che la Francia è stata condannata per quello che è successo. E la direttiva 38 che è citata in questi ultimi giorni è abbastanza chiara, perché dice che il diritto di mobilità e di soggiorno è un pilastro della cittadinanza. È quella europea. Direttiva che però dice ci vuole una dimora adeguata. Attenzione. Dice che nessun cittadino comunitario può essere espulso da un paese per ragioni di reddito, altrimenti saremmo in presenza di una cittadinanza per cento. Uniche cause di espulsione, perché fa sempre riferimento all'ordine pubblico, cioè il trattato consente restrizioni all'esercizio del diritto di precipitazione per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. E tant'è vero che poi alla fine nella direttiva viene specificato che il diritto fondamentale e personale di soggiornare in un altro Stato membro è conferito direttamente dal trattato ai cittadini dell'Unione, non deve assolutamente dipendere dall'aver completato le formalità amministrative, quindi non possiamo assolutamente dire che per motivi di ordine pubblico, cosa sono? Tutti dei condannati, tutti dei delinquenti. Per motivi di ordine pubblico si fa assolutamente riferimento nel caso in cui ci siano delle persone che o hanno dei provvedimenti giudiziari pendenti, o sono già stati condannati, o sono dei ricercati, allora quello è l'ordine pubblico. Secondo le chiedo direttamente, onorevole Alfano, un comunitario che però sta in Italia e non ha un reddito, una casa, un lavoro e dunque in qualche modo deve vivere, secondo lei che si dovrebbe fare? Se dovrebbe prendere capo? La direttiva prevede sempre che lo Stato membro che ospita deve esaminare se si tratta di difficoltà temporanee e tenere conto della durata del soggiorno, della situazione personale, dell'ammontare dall'aiuto che è già stato concesso prima. Ci sono tutta una serie di cose, di situazioni da valutare. In nessun caso l'allontanamento deve essere preso nei confronti di lavoratori subordinati, quindi lavoratori autonomi o richiedenti lavoro. Beh, ma se hanno quelli che hanno un reddito, mettiamo uno che non abbia un reddito. Anche richiedenti lavoro, se hanno perso il lavoro per situazioni che non dipendono dalla loro volontà. Ecco perché questa è una norma assolutamente xenofoba, tanto è vero che non è stata inserita nel decreto legge, ma è nel DGL, perché è stata proposta alla Commissione. Si vedrà poi tra l'altro, certo, in Parlamento. Io vorrei su questo un primo parere di Giaba Scego. Allora, le abbiamo fatte ascoltare. Giaba Scego è una scrittrice, giornalista, si occupa di queste tematiche da tanti anni, scrive anche una rubrica sull'Unità, è di origine somala, nel senso i genitori sono somali, vive in Italia da sempre. E le chiedo che ne pensa di questa normativa, di questo concentrarsi sull'immigrazione. Allora, mi è venuto in mente un proverbio spagnolo. spagnolo che dice: vivir con miedo es como vivir a medias, vivere con la paura è come vivere a metà. Io vedo un'Italia assolutamente bloccata non su questo tema, che vive con molta paura, con te, con propaganda, con stereotipi. In realtà è chiaro che l'immigrazione è difficile, ma non è nemmeno impossibile, nel senso che la convivenza è difficile in una coppia, però insomma l'amore va avanti, no? Le coppie vanno avanti. Il problema è che non si deve più parlare di problemi di immigrazione. L'immigrazione è un fatto strutturale che non può essere assolutamente risolto con norme securitarie. Qui si parla solo di sicurezza, ma non si parla di piani sociali, di piani di inserimento, di studio della lingua. Per esempio, una cosa che mi meraviglia, si parla sempre, no, di imitare l'Europa, no? Allora sì, imitiamo la Francia, però in realtà noi non stiamo imitando i modelli giusti. Per esempio, i migranti, specie i richiedenti asilo, di cui l'Italia si prende carico, quindi non ricevono, per esempio, delle cose elementari come un corso di lingua. Se uno va in Germania ha come diritto 900 ore di corso di lingua gratuito. Ecco, noi non stiamo dando degli strumenti di vita reali agli migranti, ma li stiamo schiacciando. Io sono una scrittrice, dunque sono abbastanza sensibile al tema, ad una narrazione univoca: sei o il ladro o lo stupratore o appunto quello che fa accattonaggio o la prostituta, o massimo può essere la badante. In realtà non è così, gli immigrati sono imprenditori, questo paese per molti versi in qualche modo è anche retto dal lavoro degli immigrati. C'è un bel libro di Riccardo Staglianò che si intitola Grazie, per chiare lettere, in cui spiega quanto il lavoro dei migranti sta reggendo l'Italia, soprattutto a livello delle pensioni, no? Sì. Le pensioni oggi sono pagate perché in qualche modo c'è il lavoro dei migranti. È il tema di cui ne ha parlato anche la Caritas, se ne avevamo proprio il senatore Mazzatorta. No, servirebbero sicuramente servono delle regole, ma servono dei doveri sicuramente, ma anche dei diritti. Perché io ho più paura quando una persona non ha diritto. Per esempio, con la legge Bossi-Fini a volte succede che qualcuno che stava qui da 10 anni diventa per un cavillo, perché perde il lavoro e non lo ritrova subito, clandestino. La clandestinità non è che viene da fuori, viene creata dalle leggi. Quindi servirebbero delle leggi sensate, ma sicuramente anche difficili, ma anche delle leggi in cui che permettano l'inserimento, perché queste di oggi non permettono l'inserimento, creano clandestinità, creano paura e creano in qualche modo, paradossalmente, pacchetto sicurezza crea insicurezza. Ecco, io su questo, allora, senatore Mazzatorta, come vede c'è motivo per replicare? Una legge, un provvedimento xenofobo, l'ha definito Sonia Alfano. Igea Bascego dice: c'è un appiattimento, un voler dipingere gli immigrati sempre con i soliti stereotipi, no? O sono ladri, o sono delinquenti, oppure sono la badante. Allora, facciamo un po' di ordine, perché ho sentito delle cose, tra l'altro in bocca anche a un parlamentare europeo, dovrebbe conoscere le direttive. L'articolo 14 della famosa direttiva numero 58 del 2004 dice testualmente, molto chiara: i cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. Mi pare molto chiaro, cioè la direttiva dice: potete liberamente circolare, avere il diritto di soggiorno, ma non dovete diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato ospitante. Si diventa onere eccessivo quando non si dispone di un lavoro, non si dispone di un reddito adeguato e non si dispone di un'idonea abitazione. In quel caso la persona, il comunitario, perde il diritto di soggiorno. Il problema è come allontanarlo, perché già oggi c'è un provvedimento del prefetto di allontanamento, ma è un provvedimento che non viene eseguito, perché non c'è la possibilità di affiancare le forze di polizia e di eseguire forzosamente questo allontanamento dal territorio nazionale. È tutto qui il problema. Sì. Noi abbiamo inserito questa possibilità per il questore di eseguire questo provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale con accompagnamento forzoso alla frontiera. Io sentiamo cosa ne pensa qualche ascoltatore. Luigi dalla provincia di Pisa, 800 24 00 24, se volete intervenire. Luigi. Buongiorno. Dica. Senta, io volevo dire che questo governo, come al solito, è ipocrita. Dopo un mese di tempeste sulla prostituzione che colpisce il proprio leader, rivolge il proprio indirizzo ai poveri cristi, alle prostitute di strada, a quelli che non possono difendersi. Lei dice questo tema che va bene, grazie Luigi, che è un tema sul quale sicuramente si voleva arrivare, quello della prostituzione da strada. Sentiamo Andrea da Como, buongiorno. Pronto, sì. Beh, la stessa obiezione dell'ascoltatore, però vado oltre, perché quella sulla prostituzione veramente sembra una barzelletta in questi giorni. L'altra cosa, dal punto di vista logico, sui cittadini comunitari senza reddito. Allora, se andiamo per logica, mettiamo al confino tutti i siciliani perché c'è la mafia, tutti gli imprenditori perché qualcuno evade, eccetera, eccetera. Oppure, mandiamo al confino tutti gli italiani che non hanno reddito, perché se siamo Europa, ossia la direttiva europea viene recepita in modo diverso da stati diversi. Insomma, però Andrea, non esageriamo, a parte che il termine confino. Un attimo. Ma cosa vuol dire mandiamo via gli italiani? Cioè, voglio dire... Allora, mi scusi, mi fa, sì, è ovviamente una battuta paradossale. Continui nel suo paradosso. Però non esponga il suo pensiero, scusi, mi faccia esporre il mio, lei ha tutto il tempo, abbia pazienza. Non posso esporre il mio pensiero, concluda col suo paradosso, dica il suo paradosso. Allora, siccome gli stati europei recepiscono in maniera diversa questa direttiva, non si capisce come mai altri paesi recepiscono in maniera diversa, i paesi con una cultura... In questo momento Sarkozy, noi da almeno 15 anni la recepisco in maniera restrittiva e xenofoba, questo è il punto, perché non tutti i paesi la recepiscono in quel modo lì. Questo è il punto. Questo allora, certo, ognuno la recepisce in quel modo, restrittiva, lei dice xenofoba, lei ci aggiunge, se posso dire il mio pensiero, Andrea Como, se è lecito. Questa è la sua opinione, come vede qua a dirla, certo la questione di mandiamo via gli italiani, capisco che è bello ragionare per paradossi, però insomma non esageriamo. Lei ha introdotto comunque il tema, come il precedente ascoltatore, della prostituzione da strada. È chiaro che molti si sono concentrati, anche l'opposizione, a dire ma cos'è, una battuta proprio la prostituzione da strada. Da questo voglio ripartire da Sonia Alfano subito dopo il traffico. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Detto che il 71% di voi per ora dice sì, ci vuole questa stretta su immigrazione e su prostituzione da strada, onorevole Sonia Alfano, già nei giorni scorsi lei si è prodotta in critiche, insomma, sulla questione che leggiamo su tutti i giornali da giorni, vale a dire del rapporto del Presidente del Consiglio delle Donne. Che cosa c'entra, le chiedo, la questione del fare una stretta sulla prostituzione da strada, sulla tratta delle donne, con la situazione del Presidente del Consiglio? Sì, guardi, se mi è permesso, io farò un invito al senatore della Lega. Io credo che il confronto politico debba sempre attenersi e debba essere sempre regolato dalla buona educazione. Uno può dire, considerato che noi rappresentiamo il popolo e dobbiamo evitare di scatenare un pollaio, uno può dire non sono d'accordo con quanto detto dall'onorevole Alfano, ma di sicuramente non può dire quello che ha detto, certe cose dovrebbe saperle, perché vabbè, no, mi scusi, io allora cito, visto che lei si mette in cattedra, le cito sempre l'articolo 14 che lei ha citato, perché voi siete maestri, citate quello che vi fa più comodo. L'articolo 14,4 paragrafo B: i cittadini dell'UE che siano entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per cercare un posto di lavoro non possono assolutamente essere allontanati, purché possano dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo. Mi sembra anche fuori luogo il paragrafo, l'ascoltatore poco fa, i siciliani. Sì, vabbè, ma quello sì, no, il padre. Comunque chiudiamola qui, se no, onorevole Alfano, tra lotte di direttive e citazioni di paragrafi, poi non... No, perché gli ascoltatori devono anche capire quello bene. Che diciamo. Mi risponda alla questione prostituzione da strada, perché dovrebbe scandalizzare questa stretta? No, perché, allora, le prostitute, le escort di alto rango non vengono toccate. Infatti io mi chiedo che cosa ne ha pensato la Lega, lo chiedo direttamente al senatore, quando l'altro giorno hanno appreso che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto una telefonata direttamente in questura per chiedere di non allontanare un'extracomunitaria che doveva evidentemente invece essere non solo allontanata ma messa in un centro di accoglienza, perché così era stato disposto dal magistrato. E dico, lasciamo stare che l'ha spacciata per la lingua di Mubarak, eccetera. Mi chiedo se sotto questo loro aspetto hanno dovuto ingoiare amaramente questo gesto di apertura, e cosa ne pensano loro che sono così molto, come dire, rigidi su queste posizioni. Ma quello che più mi fa sorridere, ma in realtà c'è veramente tanto da piangere, è che l'altro giorno Mara Castagna aveva, il ministro delle pari opportunità, aveva provato a far inserire nel decreto Maroni le norme contro la prostituzione arenate da un anno in Parlamento. Il progetto Castagna punisce soprattutto l'utilizzatore finale, il cliente quindi della prostituta, e probabilmente a molti ministri pare siano insomma venuti i suoi rifreddi, perché Berlusconi, forse non avendo letto il DDL, aveva detto: brava Mara, così noi dimostriamo a tutti quanti che non abbiamo nulla da temere. Questo l'abbiamo letto da ricostruzioni dai giornali, l'ho letto anch'io effettivamente, di quello che sarebbe successo all'interno del Consiglio dei Ministri. L'occhio destro non sa quello che guarda l'occhio sinistro. Ma vediamo la Lega che ne pensa. Senatore Mazzatorta, c'è questo conflitto, questo imbarazzo sul fatto di dire la vita privata del Premier cosa c'entra oppure non c'entra niente? Sono due provvedimenti che slegati, insomma, un conto è la prostituzione da strada, un conto è la vita personale tutta da accertare del Presidente del Consiglio? Senti, innanzitutto prendo atto che i Rom siano alla ricerca di un posto di lavoro e abbiano buone possibilità di trovarlo. A me risulta che i Rom non abbiano proprio questa finalità. Comunque, chiudiamo qui la polemica sui Rom. Sulla questione della prostituzione, l'intervento che fa il governo in questo momento è molto chiaro. Consente di applicare delle misure di prevenzione nei confronti delle prostitute. È una questione che diciamo, è da tanti anni aperta in questo paese. Ci sono già stati dei fogli di via dei questori, però la magistratura ha sempre annullato questi provvedimenti, sì, ritenendo che la prostituzione su strada non fosse reato e dunque non potesse essere considerato un pericolo per la sicurezza dei cittadini. Con questo provvedimento noi trasformiamo la prostituzione per strada in un reato che viene punito, sia in questo modo viene punito sia il cliente sia la prostituta, con la stessa sanzione, non con una sanzione differente, e dunque la magistratura a questo punto non potrà più dire che non è un pericolo per la sicurezza dei cittadini. Però questo è l'aspetto pratico. Mi dica se dal punto di vista politico ci sono stati questi sudori freddi. O... Ma no, i gusti sessuali del Presidente del Consiglio dei Ministri o di altri non ci interessano, a noi interessano i problemi concreti. Il fenomeno della prostituzione in strada è un fenomeno gravissimo che noi come sindaci abbiamo combattuto attraverso il sistema delle ordinanze, però queste ordinanze servono, ma occorre anche l'intervento poi del questore attraverso i fogli di via, quindi è un sistema complesso che va messo in campo per combattere un fenomeno. Quindi non c'entra niente, insomma, non c'entra niente con quello che abbiamo letto sui giornali. Per strumentalizzare ovviamente la situazione per altri fini. È solo strumentalizzazione. Senta, Igiaba Scego, lei da scrittrice, da donna, che ne pensa di questa... C'entra qualcosa le due vicende oppure no? Sto ascoltando il dibattito, mi sono veramente un po' meravigliata come con una riga, con una parola si è liquidato tutto un popolo, cioè i Rom, molti sono anche cittadini italiani. Comunque mi sono anche un po' meravigliata, era ovvio che il vostro sondaggio dice appunto che il 71% delle persone, e almeno dei vostri ascoltatori, quando uno dice basta, volete più sicurezza? Sì, vogliamo più sicurezza. Beh, interessante. No, io lo trovo molto interessante, perché giustamente i vostri radioascoltatori, ma anche come tutti gli italiani, non hanno le informazioni giuste. E un po', io adesso sono appena tornata dalla Germania, sono andata a Wolfsburg, ospite dell'Istituto Italiano di Cultura, e mi hanno raccontato, a parte che la lingua più parlata a Wolfsburg è l'italiano, perché ci sono tantissimi migranti italiani, mi hanno raccontato di come venivano trattati in Germania, cioè loro erano lavoratori, operai, e venivano portati in delle baracche, con attorno il filo spinato, e davanti al filo spinato c'erano i poliziotti. I figli di queste persone, dunque figli di italiani, venivano messi in classi differenziate e sono usciti fuori con una situazione drammatica. Non parlano il tedesco bene, perché appunto stavano in classi differenziate, ma non parlano nemmeno italiano, perché a casa magari si parlava dialetto. Allora gli italiani hanno detto, che ho incontrato, ma hanno detto che hanno provato molto rancore, e perché ancora la Germania appunto non ha chiesto scusa per quello che è successo, e loro erano considerati tale quali ai migranti oggi in Italia. Cioè, appunto, io ho trovato molto forte questa molto metafora simile. Del molto spinato, questa, no? Perché erano un problema sicurezza. In realtà noi dobbiamo cambiare la narrazione se vogliamo cambiare questa nazione. Questa nazione di fatto è diventata multiculturale, abbiamo bisogno di leggi sensate, sicuramente non, e anche parlare di prostituzione, cioè adesso Ecco, mi sembra che qui dobbiamo parlare di un ruolo di donna assolutamente diverso. Io però su questo, guardi, siccome il tema è molto interessante, ma mi devo fermare perché il tempo è scaduto, lo riprenderò perché è un tema davvero che ha interessato molto gli ascoltatori. Devo chiudere davvero in maniera lampo dicendo che do la linea a Oscar Giannino, ringrazio tutti e ci troviamo domattina.